Gate, paragate, paragate, bodhiso. Gate para gate para sangate bodhi so papa conso son i kai tempe tove cir adam je shendu guru so tongra ja ju ju wa dam de le chen dan de wa da thombara tu shi phesum so ju be Kaji denga dende dele yo. Baye joje me dondre ane jene de jambande. Ye jendo me dengo. Onam da yo. Guru Naka nirya. Sanje chodanzo je chonam la chanju bado dane gyozu je dave je je gibe sonumunje roa benje sanje rubara jo sanje chodanzo je chonam la Janju Bado Dane Gyalzoji Dage Chuje Gibe Sonumge Drola benje sanje rubara jo. Sanje jodha zoye jonam la. Shanju bado dana jasu je. Tage chushe jive sonam je. Drola benje sanje rubara jo. Munjinamge tadanyam besimje tamje tundu laname yandabu zobe sanje kubangram jijine jat tobacha teyeshido in tambecho samu nyenyambe inukun kunjurimbe liba satapshu. Adesso per generare la motivazione corretta per ascoltare insegnamenti, per piacere pensate in questo modo, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti innumerevoli, vasti come lo spazio, che sono le mie madri, devo assolutamente ottenere lo stato della completa, suprema, insorpassabile, preziosa illuminazione, per cui per questo motivo adesso ascolterò gli insegnamenti Mahayana. Adesso ho visto che mi è arrivato un messaggio dal centro in Spagna dove sono io, che è una delle studenti che si chiama Mari Carmen Sanchez, ha un cancro all'utero e sarà operata il 9 di questo mese. Io ho promesso che farò delle preghiere, che farò fare delle preghiere anche qua. Adesso, visto che è mattina e siamo tutti freschi, è meglio farle all'inizio, dedicandole. Le preghiere sono di beneficio. Se questa è la particolare malattia è solamente una condizione, un ostacolo temporaneo che si può eliminare, se non è un ostacolo temporaneo, ma è il momento in cui uno se ne deve andare, non c'è niente da fare, uno se ne deve andare. Allora facciamo le preghiere affinché... se questo è solamente un ostacolo, che i problemi possono essere eliminati, che la malattia possa guarire, se invece è il momento per lei di andarsene, che se possa avere un passaggio tranquillo senza problemi. Per cui, per piacere, se recitiamo una mala del mantra del Buddha della medicina insieme. No. 근데 다가는 시간 내지 정보 뭐 아직 들으셔도 코로나 전에는 안전멜에 송화 증거지 정비 열었어. 손은 말한서 손은 세우 열었어. 이제 코로나 그 전에서 코로나 변도 연구했어. 이제 코로나 저에 단 전부는 이제 다 전세는 그 감기도 와서 등사. 근데 전대지 다 코로나라고 가져요나. 이제 다가는 지금 시상계 진종계 열 지신보 열 어떤지 간간로 도스. 다 코로나 저에 이제 per cui facciamo queste preghiere pensando appunto di eliminare tutti questi ostacoli, queste condizioni temporanee. Pensiamo anche che il punto è questo, che lei diventa, noi recitando queste preghiere, recitando il mantra del Buddha della medicina, questa persona diventa come una condizione. Per noi in realtà noi stiamo accumulando parecchi meriti, purificando molte negatività, recitando il mantra, per cui lei diventa la persona per la quale si recita, diventa una condizione, per questo anche questa persona accumula meriti, purifica gli ostacoli. E pensiamo mentre recitiamo il mantra anche che lo recitiamo anche per il beneficio di tutti quegli esseri che sono malati di cancro e che quelli che stanno per morire di cancro e così via, affinché questi ostacoli possano essere eliminati e tutto li possa andare bene. Nate, nimdo, dundo, Lo facciamo, le recitiamo sette insieme e poi dopo ne facciamo una mala ciascuno per silenziosamente, ciascuno lo recita per i fatti suoi, ok? Beganze raza samogate so tayata om beganze beganze ma beganze beganze raza samogate so tayata om beganze beganze ma beganze beganze raza samogate so Tayata om beganze beganze ma beganze beganze raza samogate so tayata om beganze beganze ma beganze raza samogate so beganze beganze raza samogate Beganze Ranza Samon Gande Zo Dignu do da mele gelpo drugiora ne doa chikyan manuba te salango da jo. Abbiamo fatto delle pratiche invece di dare insegnamenti in questo momento. Adesso ricominciamo, eh? Ieri abbiamo parlato molto del sentiero Mahayana, in particolare delle sette tecniche di causa ed effetto, del riconoscere tutti gli esseri senzienti sono stati nostra madre, del riconoscere la loro gentilezza, il desiderio di ripagarli e così via. Che tipo di persona è veramente la persona che mette in pratica gli insegnamenti bene? E questo il grande maestro Atisha l'ha insegnato? No, dentro la preziosa ghirlanda dei consigli, è un testo di Atisha. Le qualità devono essere tenute nascoste, mentre invece i difetti devono essere mostrati. E non bisogna sottolineare i difetti degli altri, non bisogna guardare i difetti degli altri. Mentre invece bisogna evidenziare le qualità degli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando vediamo dei difetti degli altri, invece di costruirci sopra delle cose, pensiamo a questo probabilmente è il mio modo di vedere, non sono dei difetti che ha questa persona. Questo in breve, la persona che pratica il Dharma deve avere questo tipo di discriminazioni. Questo è il modo in cui veramente il praticante del sentiero Mahayana porta avanti la sua pratica. Per quanto riguarda me, sono esattamente l'opposto. Coloro che sono come me sono esattamente l'opposto di questo. In realtà dovremmo essere proprio così, specialmente coloro che hanno preso gli insegnamenti Mahayana, hanno preso le iniziazioni e così via. Questo è il tipo di carattere che dovrebbero adottare. E tutte queste qualità, così pure tutte le qualità che vengono che sorgono dalla pratica del sentiero della liberazione individuale, dalla pratica del sentiero Mahayana, dalla pratica del Tantra, del mantra segreto, tutte quelle qualità derivano dove si basano, sono radicate dove? Nel riflettere, nel meditare le sofferenze, nel meditare la prima delle quattro nobili verità, la verità della sofferenza. Quindi per questo diventa veramente la cosa più importante. Oh, Lo so che diventa un problema in Occidente, molte persone non gli piace sentire parlare delle sofferenze. Ci sono due modi di meditare le sofferenze. Però le persone che quando riflettono sulla sofferenza, sulle varie sofferenze specifiche generali del samsara, se il loro stato mentale peggiora, se mentando le sofferenze si diventa estremamente depressi e così via, quello è un segno che non si sa come meditare sulle sofferenze, quello è un segno in cui stiamo meditando sulle sofferenze in un modo completamente sbagliato, in realtà dovrebbe portare l'opposto. Il grande Bodhisattva Shantideva ha spiegato cinque qualità che deriva delle sofferenze. No. E quali sono questi cinque? No, il primo beneficio, i benefici, le qualità che derivano dal riflettere sulle sofferenze, il primo di questi è che meditando sulle sofferenze si diminuisce, l'orgoglio, l'arroganza diminuisce. E abbiamo già parlato nei giorni passati degli svantaggi e comunque delle negatività dell'arroganza e dell'orgoglio. Non solo, il secondo è che meditando le sofferenze c'è il vantaggio di essere ispirati nell'ottenimento della liberazione. Non solo, se meditiamo bene sulle sofferenze, veniamo a conoscere bene quelle che sono le cause della sofferenza. Non solo, proprio per questo fatto qua, visto che meditando la sofferenza si riconosce il bisogno di ottenere, il desiderio che abbiamo di ottenere la felicità, per cui si cercheranno quali sono le cause che portano queste felicità e per cui meditare le sofferenze porta a riconoscere che la causa della felicità è la pratica delle virtù. Non solo, il quinto di queste qualità, dei benefici che derivano dal riflettere sulla sofferenza e che proprio avendo compreso esattamente che questa è la nostra esperienza, comprenderemo che anche l'esperienza degli altri e su questa base genereremo compassione, per cui questa è la quinta delle qualità, dei benefici che derivano da riflettere sulle sofferenze. In generale abbiamo visto questi punti nei giorni passati. Abbiamo citato già il grande Bodhisattva Shantideva che dice che se senza pensare, riflettere, comprendere la realtà delle proprie sofferenze, la grande compassione verso gli altri non sorgerà nemmeno nei sogni. Ma Per cui abbiamo visto nei giorni passati come assieme alla riflessione, alla meditazione sulle sofferenze, come è importante comprendere il modo di operativo delle cause e dei loro risultati, perché è proprio su questa base qua, che sulla base di comprendere bene che come i fenomeni, anche in questo caso felicità e sofferenze, dipendono dalle loro specifiche cause e sono estesi dei risultati, questo diventa poi la base vera e propria della nostra pratica. In età, per quanto riguarda la generazione di Bodhicitta, della mente dell'illuminazione, che è il secondo di questi dei tre aspetti principali del sentiero, così come nel testo siamo arrivati al punto del modo vero e proprio in cui si genera questa mente dell'illuminazione. Abbiamo visto che ci sono due metodi fondamentali, uno che è le sette tecniche di causa effetto che abbiamo visto ieri, quell'altro è lo yoga dell'equalizzare, eguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Il risultato che portano queste meditazioni è lo stesso, ovvero sia la realizzazione della mente dell'illuminazione. No, questi due metodi di meditazione sono due lineaggi diversi di trasmissione di pratica. Quello che abbiamo visto ieri, le sei tecniche di causa in effetto, quel lignaggio, entrambi cominciano da Buddha Shakyamuni, sono stati insegnati da Buddha Shakyamuni. Questo in particolare appartiene alla trasmissione del sentiero vasto. Per cui Maitreya, Buddha Shakyamuni, Maitreya, Asanga, Vaisubandhu e così via. No, e invece lo yoga del eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, ancora l'insegnamento parte da Buddha Shakyamuni e viene trasmesso da un lineaggio che passa da Manjushri, Shantideva e così via, e questo è il lineaggio il lineaggio chiamato anche speciale, che ha delle caratteristiche molto speciali, particolari. Questo lineaggio è chiamato anche il lineaggio più vicino che possiede delle forti benedizioni, è molto è molto potente. Questo è anche questo lineaggio è il più importante. Per esempio il grande maestro Atisha, voi sapete la storia, che benché fosse un grande bodhisattva già per riuscire ad avere questo lignaggio si imbarcò in un viaggio lunghissimo per l'isola in Indonesia. In Indonesia in quel momento lì era molto difficile viaggiare, si imbarcò in una nave, il viaggio durò mi pare 11 mesi e andò per ricevere questi insegnamenti da Lama Serlimpa, stette con Lama Serlimpa mi pare 13 anni o 11 o 13 anni, adesso mi ricordo bene. Voi sapete comunque questa storia, lo fece perché? Proprio per l'importanza di avere questi insegnamenti. Dopodiché, quando Atisha andò in Tibet per propagare gli insegnamenti, combinò questi due lignaggi e li trasmise al suo discepolo principale diciamo insieme. Nel commentario di Gyaltsen Papon Karinpo c'è dei tre aspetti principali del sentiero, esplicitamente vengono spiegati il primo di questi lineaggi delle sette tecniche di causa e effetto, mentre invece l'eguagliare e lo scambiare se stesse con gli altri è spiegato solo dal punto di vista di indicare quali sono i punti. E anche Gerinpoche nel testo radice dei tre aspetti principali del sentiero esplicitamente è presente le sette tecniche di causa in effetto, mentre invece questo è presente implicitamente, benché Gerinpoche stesso l'avesse ricevuto direttamente da Manjushri. Per cui questo che cosa indica? Indica il fatto che questo tipo di pratica lo yoga del eguagliare e scambiare stessi con gli altri viene fatto in segretezza. Per spiegarvi questo punto, per indicarvi come questa pratica è stata tramandata da Buddha Shakyamuni nel momento in cui Buddha lo insegnò per la prima volta fino a quando arrivò in Tibet, dopo che entrambi, Lama Atisha e il suo discepolo principale Drom Rinpoche, finché non lasciarono il corpo entrambi, questo insegnamento non era mai stato scritto su un foglio di carta o niente, era sempre stato tramandato in segretezza solamente da Lama a un solo discepolo oralmente. L'insegnamento fino a Drom Rinpoche, fino a che lui non lasciò il corpo, non morì, questo insegnamento era stato tramandato esclusivamente in questo modo. Infatti questo è il modo vero e proprio di condurre la propria pratica del Dharma. La propria pratica del Dharma non va pubblicizzata, non va mostrata agli altri, è l'opposto di quello che succede ai giorni nostri. Io pratico questo, io pratico quell'altro, tutti pubblicizzano e parlano di quello che pensano e di quello che fanno. Questo è un modo completamente sbagliato. La propria pratica va rivelata e discussa solamente col proprio maestro, punto. Non va parlata in giro, perché? Non per qualcosa non per essere contro gli altri o per arroganza, no, no, ma perché in questo modo si sviluppano le qualità interiori, si sviluppano tenendole segrete dentro di sé e comunicandole col proprio maestro. Specialmente la pratica, coloro che praticano il mantra segreto, proprio come dice la parola, la pratica deve essere condotta completamente in segretezza. Perfino le sostanze, gli oggetti rituali, no? Come il vajra, la campana, il damaro, queste sono, non devono essere mai mostrate, non devono, la gente non deve neanche sapere che possediamo queste cose qua. Adesso poi mi devo fermare perché sennò poi continuo a parlare. Comunque ve lo dico per il vostro beneficio, in questo modo si degenerano i samaya e basta, per cui in realtà si creano solamente degli ostacoli alle proprie realizzazioni. Queste comunque sono cose da sapere e da praticare. No, per cui ritorniamo sui nostri passi per quanto riguarda il lignaggio dello yoga, del eguagliare, scambiare se stessi con gli altri, che è stato tenuto tramandato solamente oralmente fino alla Drontompa. Dopodiché il primo a mettere in scritto questi insegnamenti fu un Lama Kadampa, Geshe Chekawa. Coloro che praticano il Lamrim e che recitano la preghiera dei Lama del lignaggio del Lamrim lo sanno. E infatti questa preghiera dei Lama del lignaggio, coloro che meditano il Lamrim dovrebbero saperlo, in cui si richiamano ciascuno dei Lama del lignaggio che è stata composta da Lama Tsongkhapa, appunto richiama Geshe Chekawa chiamandolo come colui che possiede bodhicitta, per cui la mente dell'illuminazione, per cui fa una lode speciale a Geshe Chekawa in connessione con le sue qualità di bodhicitta. Il modo in cui Geshe Chekawa, la storia di Geshe Chekawa, alcuni di voi la conosceranno. Lui appunto cercava queste istruzioni di bodhicitta e a un certo punto venne a conoscenza di uno dei versi dell'addestramento mentale in otto punti in cui si parla di prendere su di sé tutti, di indirizzare tutti gli errori e le negatività verso se stesso e di dare agli altri tutto ciò che è positivo. E in quel momento appunto lui generò questo grande desiderio di praticare questo sentiero. Dal momento che il eguagliare e scambiare stessi con gli altri ha una connessione così forte con questo Lama Kadampa Geshe Chekawa, se diamo un po' di cenni biografici del Lama e di beneficio. Appunto a un certo punto niente che si cercava generò questo forte desiderio di praticare questo insegnamento, questo particolare insegnamento. Lui si basava solamente sull'aver visto, sull'aver sentito queste alcune parole di questo addestramento mentale che viene da quest'altro Lama Kadampa, Geshe-lan Rintampa, che si basa appunto sull'eguagliare e scambiare se stessi con gli altri, si imbarcò in questa ricerca. Non aveva ancora incontrato Geshe-lan Rintampa, si imbarcò in questa ricerca per capire se questo era un insegnamento genuino, se queste parole veramente appartenevano a un lignaggio genuino. Per cui venne a sapere che queste parole venivano da questo Lama Kadampa Geshe-lan Rintampa e si imbarcò in una ricerca, cominciò ad andare a cercare dove questo Geshe-lan Rintampa. No, entrambi questi lama erano in questa regione del Tibet che si chiama Pembo, che è la regione, come abbiamo visto anche in precedenza, dove nacque Lama Tuten Yeshe. No, e per cui entrambi anche questi lama famosi Lama Kadampa, Geshe-lan Rintampa e Geshe Sharawa, entrambi provenivano da Pembo, dal Pembo. E a un certo punto Geshe Chekawa era a Lhasa, si trovava a Lhasa, Lhasa è la capitale del Tibet, e venne a sapere di questo persona che era appena arrivato, questo praticante, che era appena arrivato da Pembo, dalla regione del Pembo, per cui lo andò a trovare e gli chiese notizie di questo Geshe-lan Rintampa che lui cercava, e questa persona gli disse: guarda, Geshe-lan Rintampa non c'è più, è morto. Per cui a quel punto, senza scoraggiarsi, gli chiese: allora, ma chi è il suo successore, c'è qualcuno che è successo a Geshe-lan Rintampa? Ce n'erano due, uno che si chiamava Geshe Dodepa e Geshe Shanshumpa. Allora si informò anche di che cosa facevano questi due, che attività portavano avanti questi due che dovevano essere i successori di Geshe-lan Rintampa. Allora questa persona gli disse: ma stanno litigando sul modo in cui dovrebbero portare avanti le attività del monastero, del posto o del centro di Dharma che era di Geshe-lan Rintampa. A quel punto Geshe Chekawa pensò: se litigano per il modo in cui dovrebbero portare avanti le attività del centro, del loro maestro, che ha insegnato di prendere su se stessi tutte le negatività e gli errori e invece dare agli altri la vittoria e tutte le cose positive, non stanno affatto praticando quello che ha insegnato il loro maestro, per cui per lui non fu una bella indicazione questa. Mm-hmm. Deva de Maris, Chiran, the Chigris, Malayon, the Yamaris, Chiran, Gombajan Rossi, near Larita Mashubunashi, Chevshukins. Those say Javaris. In a Kuni Majaba Desha said, Sigit Holotte. In realtà, non era che questi due geshe e Kadampa erano in contrasto da un punto di vista negativo. In realtà, che cosa successe? Successe che questi due geshe, geshe Dodepa e geshe Shanshumpa, uno di questi era più anziano dell'altro. Quello giovane aveva delle grandissime qualità. Per cui quello anziano gli aveva detto: adesso porta tu avanti le attività del centro di Geshe Larin Tampa perché hai più qualità di me. E invece quello giovane gli aveva detto: no, per piacere portale avanti tu che sei più anziano e io ti servo, ti servirò come se tu fossi Geshe Larin Tampa. Per cui in realtà non è che avevano un contrasto negativo, ma anzi, proprio perché ciascuno vedeva più qualità di se stesso nell'altro, ciascuno voleva che fosse l'altro a condurre le attività del centro. No, per cui questo era quello, però Geshe Chekaba aveva capito l'aveva capito in un modo diverso. E in ogni caso, appunto, non andò a visitare quel posto e decise invece di andare a trovare il Lama Kadampa che era rimasto dopo Larin Tampa, che era il più famoso, che era appunto Geshe Sharawa. E nel momento in cui Geshe Chekaba arrivò nel posto dove c'era Geshe Sharawa stava dando insegnamenti a migliaia di discepoli. E per una settimana rimase ad ascoltare gli insegnamenti che Geshe Sharawa stava dando. Che cosa stava insegnando Geshe Sharawa? Geshe Sharawa stava insegnando i sentieri e i terreni degli uditori, per cui stava dando degli insegnamenti in relazione al veicolo di liberazione individuale. Per cui per una settimana ascoltò questi insegnamenti e non udì niente da questo Geshe Sharawa per quanto riguarda gli insegnamenti del sentiero Mahayana, così come li aveva come li aveva insegnati Geshe Larin Tampa. Per cui pensò, Geshe Chekaba pensò: adesso è una settimana che ascolto gli insegnamenti che dà questo Geshe Kadampa Sharawa, ma probabilmente lui non ha il lignaggio di Geshe Larin Tampa, perché appunto non udì neanche una parola in quel contesto. Poi a un certo punto ci fu un giorno di intervallo degli insegnamenti. E durante quel giorno di intervallo Geshe Sharawa, che era l'insegnante appunto, stava circumambulando uno stupa. E appunto Geshe Chekaba allora lo andò a incontrare mentre stava facendo le circumambulazioni, si tolse lo zen, che è lo scialle dei monaci, lo piegò, ne fece come un cuscino, lo mise un tappeto, lo mise per terra, gli dice: per piacere, se potessi sederti un attimo avrei delle domande da farti. E allora invece che cosa successe? Che Geshe Sharawa lo sgridò, gli disse: ma Tu quello che avevo da dire l'ho già detto quando ero sul trono, che cos'hai da chiedermi adesso? E comunque Geshe Chekawa disse no, scusa, si chiese scusa. E gli disse, scusami se ti chiedo questa cosa, però sono venuto in contatto, ho udito queste parole di questo verso che dice offri sempre la vittoria agli altri e prendi su di te la sconfitta, e mentre nei momenti più difficili, questo pensiero mi è di grande beneficio. Volevo sapere se è veramente un insegnamento genuino o no. Geshe Sharawa gli rispose, non c'è nessuno più genuino e più degno di Nagarjuna. Perché? Perché queste parole, in realtà le parole di radice di questo verso, si trovano nella preziosa ghirlanda di Nagarjuna, in cui sono queste parole che indicano proprio la pratica del Tonlen, e questa pratica qua possono tutte le sofferenze degli esseri maturare su di me, possono tutte le mie felicità e le virtù maturare sugli altri. E per cui a quel punto Geshe Chekawa fu così contento che gli disse grazie, per piacere, adesso donami questo, vorrei ricevere questo lignaggio da te. E allora Geshe Sharawa gli disse, bene, se sei in grado di starmi vicino per 13 anni, allora ti darò questo insegnamento. E così appunto imparò, a prese questi insegnamenti e li raggruppò per la prima volta in uno scritto, in 7 punti, che appunto diventò l'addestramento mentale, si chiama il Lojong in 7 punti, l'addestramento mentale in 7 punti. Per cui vedete, a quei tempi i praticanti avevano tempo di dedicare tutto il loro tempo appunto per la pratica del Dharma. Infatti per 13 anni rimase con Geshe Sharawa e ricevendo gradualmente gli insegnamenti, meditandoli e realizzandoli uno per uno, alla fine progredì in questo modo e compose l'addestramento mentale in 7 punti. Adesso facciamo 10 minuti di ricreazione. Metto già rirang li shin mi te ge pa ne son ge shin tu mi te mu a ge ro ho nan da je na je ba guru arana mandala kan nir ya ta ya me. Se avete delle domande, avete un foglio di carta, per piacere scrivetelo. Non scrivete le domande sul librettino delle preghiere, per piacere. Guru Rana Mandela Vaniya Daya Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Mindu Allora adesso a questo punto stiamo guardando la seconda delle due, dei due lineaggi degli insegnamenti delle meditazioni per generare bodhicitta, che è l'eguagliare, lo scambiare se stessi con gli altri. E come prima, all'inizio il primo, diciamo, gradino per entrare in questa meditazione è la meditazione sull'equanimità. Allora, ieri quando abbiamo parlato dello sviluppo dell'equanimità in connessione con le serie tecniche causa-effetto di Tamnyo Khandze Sigongore, come è stato spiegato lo sviluppo di questa equanimità? Qualcuno se lo ricorda? Qualcuno dica qualcosa. Bisogna eliminare le idee di attaccamento verso la nazione di amico, nemico. Niella cha di Jarlan Dan Dim di ci Nyom ci so. Nyom Chanyom Chanyom Samde. Tra ni Pamasumde Chori Mevo Chanyom Samde. Sì, quel tipo di equanimità si medita in rispetto al si genera un'equanimità, un'attitudine equanime rispetto a quelli che invece vengono al modo di discriminare gli altri dal punto di vista di amici, nemici e indifferenti. Per cui l'hai detto giusto, era esattamente quello che bisognava rispondere. Per cui si tiene questa in connessione con questa meditazione, con queste tecniche dell'eguagliare e scambiare se stessi con gli altri. Ancora si medita l'equanimità in quel modo lì, ma in più che cosa ci si aggiunge? Ci si aggiunge la nozione del fatto che sono uguali, tutti gli esseri sono uguali per il fatto che tutti nello stesso modo desiderano essere felici e non desiderano soffrire. Per cui si aggiunge questa considerazione. Per cui non solo si pone un'enfasi particolare nel sviluppare questa considerazione che tutti gli esseri sono uguali perché sono esattamente uguali perché desiderano essere felici nello stesso modo e desiderano non soffrire nello stesso modo. Per cui come nel verso di Lama Chopa, della Lama Chopa, in cui il verso particolare che indica a questo punto questa meditazione, si dice che non desiderano sperimentare nemmeno un attimo di sofferenza, nemmeno la più piccola sofferenza, e la felicità non è mai abbastanza. E la felicità non è mai abbastanza, per cui non c'è nessuna differenza in questa realtà tra me stesso e gli altri. Per cui, per piacere, ispirami o dammi fai sì che possa generare la trasformazione meravigliosa per considerare per essere più felice per quanto riguarda gli altri, più che me stesso. Per cui pensando in questo modo di pensare è il si riferisce allo scambiare se stessi con gli altri, considerare gli altri, la felicità degli altri più importanti, più importante di quella per se stessi, di sé. Cambiare se stessi con gli altri non è uno scambiare il proprio corpo con quello degli altri, per esempio. Non è lo scambiare la propria mente con quella degli altri? Allora che cos'è scambiare se stessi con gli altri? Che cos'è che va cambiato? Va cambiato il modo di pensare. Adesso com'è il nostro modo di pensare è costantemente riferito esclusivamente su noi stessi, io. Mentre invece per quanto riguarda gli altri, io e gli altri, per quanto riguarda gli altri abbiamo un'attitudine di benché minima di indifferenza. Per esempio, se per esempio siamo in macchina, stiamo andando da qualche parte, magari abbiamo fretta, se vediamo per esempio un animale che sta morendo per la strada, magari sì, pensiamo, ah, poverino, però ci passiamo, continuiamo per la nostra strada piuttosto con tanta indifferenza. Questo è un esempio dell'attitudine. Se per esempio vediamo che c'è un gruppo di persone che stanno litigando, a meno che non siano coinvolte delle persone a cui vogliamo bene o dei nostri amici, non solo ce ne disinteressiamo, ma cerchiamo di allontanarci al più presto da quella situazione, pensando meglio andarsene, che qua succedono, poi ci saranno dei problemi, poi magari arriva la polizia, mi coinvolgono, non voglio essere coinvolto in questo. Questo è il modo in cui pensiamo, no? Mentre invece se c'è qualcosa in relazione a noi, come qualcuno a cui vogliamo bene o qualcuno che per i nostri amici è così, allora ci sentiamo di coinvolgerci. Per cui questa è l'attitudine da cambiare, ovvero sia invece di essere ossessionati esclusivamente con se stessi, con tutto ciò che riguarda se stessi e la propria felicità, bisogna cambiare questa attitudine e fare in modo che questa attitudine invece di rivolgerla verso se stessi la rivolgiamo verso gli altri e quell'indifferenza che abbiamo verso gli altri la rivolgiamo verso noi stessi. Ancora per parafrasare un altro dei versi che sono in questa pratica della Lama Chopa, riflettendo in questo modo, per cui tutto ciò che è negativo, tutto ciò che non desidero, tutte le sofferenze derivano esclusivamente dal coltivare il pensiero egoistico, mentre invece tutto quanto ciò che è di positivo, tutto quanto ciò che porta felicità deriva esclusivamente dal pensiero altruistico, per cui aiutami a generare la trasformazione magnifica per considerare più importanti gli altri di me stesso, o per abbandonare l'egoismo e generare l'altruismo. Nel di Dundumar, va? Ah. Dundumar è... E infatti lo stesso, questa stessa pratica nella composizione dell'addestramento mentale in sette punti di Geshe Chekawa è mostrata da questi versi. L'elentanze ce la dà con la carri cemba con ci sono due frasi che indicano questa pratica. La prima è l'elentanze ce la dà di mare di zitata di in tibetano è molto, sono molto belle queste frasi, sono molto dirette e brevi, in italiano un po' più lunga da mettere fuori, da tradurre così letteralmente, per cui l'elentanze ce la dà vuol dire accusa o poni il the blame, how do you say that? È orribile. Anche in inglese ancora è un po', va già anche meglio. Comunque non è biasimare, dai la colpa di tutti i problemi a una sola cosa, dai la colpa di tutti i problemi a una sola cosa e pensa che gli altri siano e pensa alla gentilezza degli altri. Queste due frasi indicano questa particolare pratica nel Lojong in sette punti, nella pratica dell'addestramento mentale in sette punti. Per cui dai la colpa di tutti i problemi a una cosa, e adesso viene la spiegazione. Quello che dicevo, come si già se vuoi ora, se ci chiedono, per vedere se sono... È vero che nella lingua tibetana il modo in cui il significato delle parole, anche una sola parola, può avere dei significati molteplici e completamente diversi. Per esempio, abbiamo visto all'inizio. Adesso ci sono molte persone che non c'erano all'inizio degli insegnamenti, ma ne abbiamo parlato, quelli che c'erano lo sanno. Per esempio abbiamo parlato del Dharma, di questa parola, come può indicare tantissimi significati completamente diversi, può indicare la pratica del Dharma, può indicare in generale un fenomeno, così che si può essere esterno o interno, può avere un'indicazione positiva, può avere un'indicazione negativa, per cui è... questo è il modo, il contenuto della lingua tibetana è così, è diverso dalla nostra. E che cosa vuol dire? Dai la colpa di tutto ciò che è negativo a una sola cosa? Vuol dire che che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto ciò che è negativo, tutto ciò che non vogliamo, che non desideriamo sperimentare, la colpa di tutto questo è una cosa sola, l'egoismo. Per esempio le azioni negative come rubare e così via, perché le facciamo? Perché si compiono queste azioni? Perché pensiamo a noi stessi? Perché vogliamo che perché pensiamo solo a noi stessi? Perché vogliamo essere proprio perché pensiamo solamente al nostro tornaconto, solamente al nostro beneficio? Ecco che mentiamo, ecco che rompiamo le nostre relazioni, siamo adulteri. Mm. E anche nello stesso modo, proprio perché pensiamo più a noi stessi, che uccidiamo. Se guardiamo tutte, qualunque tipo di azione negativa, non virtuosa, è fatta esclusivamente sulla base del pensare a noi stessi, sulla base dell'egoismo. Se analizziamo bene questo fatto, vediamo che sì, è vero, la radice, la causa, il motore del samsara è il concepire un sé, la concezione del sé, l'afferrarsi a un sé. Però se noi guardiamo, l'egoismo è ancora peggio di questo. Vediamo anche tutti i problemi che derivano dall'insoddisfazione. Che cos'è l'insoddisfazione? Da che cosa è creata? Dall'egoismo, anche questo a livello individuale, anche a livello sociale, a livello vasto, nel mondo, tutti i conflitti, le guerre, i vari conflitti, tutti quanti questi problemi, da che cosa derivano? Derivano dall'egoismo, dal pensare più a se stessi che agli altri. Per cui riflettendo in questo modo dobbiamo arrivare a comprendere come tutto ciò che è negativo, tutto ciò che non va bene, tutti i problemi, tutte le sofferenze derivano esclusivamente da pensare più a noi stessi che agli altri, dall'egoismo. Lo so che adesso ci sono anche delle persone nuove che sono appena arrivate e allora sentono sentire così di prima acchito parlare di questa cosa, pensare che tutto ciò che è negativo dipende solamente dal pensare più a se stessi che agli altri, magari è qualcosa che è difficile da digerire. Oppure pensano che sia qualcosa così di sono tutti discorsi tutti discorsi un po' campati per aria che a livello pratico non hanno nessun riscontro, invece non è affatto vero. Negli insegnamenti si parla di come raggiungere uno stato di purezza totale, di abbandono totale di tutti gli aspetti negativi e di come è possibile fare ciò, di come questa è una realtà insita nell'essere vivente. E per raggiungere questo tipo di ottenimento, questo tipo di risveglio, questo tipo di sviluppo, è indispensabile abbandonare l'egoismo. Senza abbandonarlo completamente non può succedere. E l'altro verso era Kuna Kadrinche Magom, che vuol dire medita tutti estremamente gentili, che sono tutti estremamente gentili, o pensa che tutti sono estremamente gentili. Abbiamo nei giorni passati abbiamo visto come gli esseri illuminati Buddha vanno considerati come un dottore. Proprio un dottore, per cui la gentilezza dei Buddha è incredibile. Non dobbiamo pensare che in realtà gli esseri senzienti sono molto più gentili dei Buddha per quanto riguarda noi. Perché in realtà tutto quello che abbiamo, che avremo, che abbiamo avuto, deriva esclusivamente dagli altri. Anche a livello ordinario, tutto quello che mangiamo, che beviamo, il fatto che le nostre case, il nostro jet, tutto, qualunque cosa abbiamo di cui ne traiamo vantaggio, deriva dagli altri, l'abbiamo perché ci sono gli altri. Adesso è oggi che parliamo di questa pratica dell'eguagliare, scambiare stessi con gli altri. Ieri abbiamo visto come la madre di questa vita è così gentile verso di noi. Ecco, in realtà tutti gli esseri sono ancora molto più gentili della gentilezza della madre di questa vita verso di noi. Amanda Pugni Chico, da Perché se per esempio fossimo, anche se fossimo con nostra madre in un posto dove non ci sono gli altri, dove non c'è nessuno, dove siamo solamente noi due, la nostra gentile madre e noi, dopo un po' di giorni moriremo. Per cui il fatto che continuiamo a vivere, che siamo vivi e prosperiamo, dipende esclusivamente dal fatto che ci sono gli altri, dalla gentilezza degli altri. Bene. Non so che sayage de tale kana simje kaza kadla kyoris. Anche se per esempio se noi solamente consideriamo il fatto di anche quando mangiamo solamente un piatto di riso da quanti esseri deriva il fatto che noi possiamo mangiare quel piatto di riso e anche quanti esseri sono morti nel processo in cui poi alla fine a noi ci è arrivato del riso cui possiamo mangiare. E anche il fatto che indossiamo dei vestiti che ci piacciono, che sono leggeri, che sono freschi, della lana morbida, abbiamo delle belle scarpe. Tutte queste cose qua, da chi derivano? Da chi derivano? Chi è che ci permette di sperimentare queste cose, di goderne? Sono gli altri. No. Per esempio, anche solamente gli indumenti di pelle o le scarpe, il fatto che la pelle è morbida e che è fresca, che è la pelle di qualcuno. Per cui, se riflettiamo, vedremo come gli esseri sono veramente estremamente gentili. Lo so, qualcuno di voi pensa, no, in realtà io sperimento queste cose perché lavoro e faccio fatica e me le guadagno. Ma il fatto che potete guadagnare qualcosa è perché ci sono gli altri, anche il guadagno deriva dagli altri, no? Senza dipendere dagli altri non potremo neanche guadagnarci qualcosa. Per cui il pensare, sì, ho lavorato, ho fatto fatica e ho guadagnato questi soldi che mi permettono di comprare queste cose. Ma anche i soldi da chi provengono? Provengono sempre dagli altri, così pure anche le banche, così pure tutto il processo finanziario e tutto quanto dipende dal lavoro di infiniti altri. Per cui è inutile anche che vada in troppe spiegazioni, solo il fatto che noi non ci abbiamo mai pensato, non riflettiamo su queste cose, però nel momento in cui ci mettiamo a riflettere, anche il cibo che mangiamo, anche se è solo un piatto di riso, questo riso deve essere coltivato, questo riso deve essere raccolto, deve essere piantato, ci devono essere degli altri. Quanti altri esseri sono coinvolti? Quanti, che numero incredibile di esseri sono coinvolti solamente nel processo di per cui dal a noi arriva quel particolare, abbiamo la possibilità di mangiare anche solamente un piatto di riso. Tutto quanto quello che sperimentiamo nell'ambito delle 24 ore della nostra giornata, della nostra vita. Questo è in realtà quello che dovremmo costantemente pensare, la pratica principale dovrebbe essere proprio questa, mentre invece se negligiamo questo tipo di pensiero, questa riflessione, pensiamo di fare qualche altro tipo di pratica. Per esempio, se fosse così, allora quando cos'è stato ieri o ieri l'altro, quando abbiamo parlato del potere del supporto, del sostegno, che vuol dire la pratica del prendere rifugio e generare bodhicitta, che cosa avete capito di quelle pratiche lì? Che cosa avete capito? Qualcuno dica qualcosa, sono delle domande, non so se qualcuno le sa. Cosa avete capito che è la pratica del potere del sostegno, del supporto? Ve la ricordate, no? Le venerabili qua, qualcuno dica qualcosa. Ma non avevamo detto che abbiamo fatto l'esempio che quando si cade per terra è da quella terra lì che ci si rialza, sulla base di quel del posto dove siamo caduti, da lì ci rialziamo, giusto? Di Karlsena di Sungare di Karlsena di passasse di chi solo di concessione da semcere va on di andrevares per cui nel momento per purificarle che cosa dobbiamo fare? Di scendere non per macere ci vuole. No, è che si purifica sulla base dei tre gioielli e degli esseri senzienti, no? Così come si cade per terra, perché ci si rialza da quel terreno lì, nello stesso modo, dal momento che il terreno principale su quale accumuliamo le azioni negative sono i tre gioielli e gli esseri senzienti, è sulla base di loro che poi ci si rialza, nello stesso modo, giusto? Per cui anche per quello, per purificare le azioni negative, che abbiamo bisogno degli altri. Per generare la mente dell'illuminazione abbiamo bisogno degli altri, no? Ci basiamo sugli altri. Per generare la grande compassione ci basiamo sugli altri, giusto? Per cui pensando in questo modo si arriva a capire come gli esseri senzienti in realtà sono ancora più gentili dei Buddha. In generale si dice che i Buddha e gli esseri senzienti sono uguali per quanto riguarda la gentilezza verso di noi, però invece sono anche altri lama che proprio riflettendo in questo modo arrivano a spiegare che in realtà gli esseri senzienti sono ancora più importanti, sono ancora più gentili dei Buddha. Да, Shantideva. E così anche il grande Bodhisattva Shantideva spiega che a questo punto dice, e poi non c'è troppo da spiegare a questo punto, basta che guardi quali sono i risultati che hanno ottenuto i Buddha, gli esseri illuminati, perché sono esseri illuminati, perché hanno abbandonato l'egoismo e hanno pensato più all'altri che a se stessi, mentre invece guarda un po' che cosa hai ottenuto tu fino adesso, pensando esclusivamente a te stesso. E anche Panchen Losa Choki Gyetse nella sua pratica della Lama Chopa dice a questo punto in uno dei versi, per parafrasare l'ultimo di questi versi in relazione al scambiare se stessi con gli altri, appunto indica questo, tutto ciò che è positivo deriva dal prendersi cura degli altri, tutto ciò che è negativo deriva dall'egoismo, per cui adesso ispirami affinché possa generare e realizzare la pratica dello scambiare me stesso con gli altri. Per cui se siamo in grado di riflettere più profondamente possibile, in modo più estremamente vasto, a quelli che sono i vantaggi dell'altruismo e a quelli che sono gli svantaggi dell'egoismo, allora arriveremo a un punto in cui tutta la nostra pratica verrà convogliata esclusivamente sulla pratica del Tonglen, del prendere e del dare. E in questo modo che poi sulla base del Tonglen si praticherà questa pratica del cambiare se stessi con gli altri. Per quanto riguarda la pratica del Tonglen, si riferisce a tre che sono gli oggetti, l'on. In ogni caso, per veramente avere una pratica genuina del Tonglen, per avere una pratica genuina di queste cose, bisogna a monte di tutto questo, che cosa bisogna fare? Bisogna riflettere in un modo vasto e in modo profondo per lungo periodo di tempo quelli che sono i vantaggi dell'altruismo e quelli che sono gli svantaggi dell'egoismo. Solamente quando la mente è presa, ha compreso bene queste cose qua, che allora sarà facile e sarà veramente la nostra pratica del Tonglen diventa una pratica genuina. Perché credo che Geshe-la prima anche abbia detto ci sono tre oggetti e poi ci sono tre momenti e tre virtù per quanto riguarda la pratica del Tonglen. Poi sulla base di questo ancora Panchen Losa Choki Gyetse nella sua nella pratica della Lama Chopa, che cosa ha detto, per cui a questo punto richiede l'ispirazione ai Lama del lineaggio affinché per poter essere in grado di prendere su di sé le negatività e le sofferenze di tutti gli esseri senzienti affinché maturino su di me in questo stesso momento, e per perdonare a tutti gli esseri senzienti tutte le mie virtù e le felicità affinché maturino in loro, esclusivamente in loro, in questo stesso momento. Il modo vero e proprio di portare avanti questa pratica è il In tibetano tonglen vuol dire dare e prendere, però nel momento in cui lo pratichiamo, prima prendiamo su di noi e poi diamo, e questo è il modo di procedere. Da desi gyeres yusum sudu ne da ne pamasum rwa tonglen gobse yude. No, poi qui ci sono tre oggetti verso i quali rivolgiamo questa pratica, per cui ci sono i amici, nemici e indifferenti. Da luigi geza magi geza ini yiji kaza sana dhigyari, yame dhajameva, shedameva, timumeva sana dhigyari, kaza sumsidu. No, e le tre virtù, che cosa sono? Le tre virtù sono l'abbandono dell'odio, dell'attaccamento e dell'ignoranza. Ta, tagasi, ta, tosu kumea yama resi, nila, jive shodru mundu ta, ini, jik, kan, mendrepu, ini, teni, ini, toksam tang ina, ta, o, ini, shengi, E quando si fanno queste meditazioni non è che così improvvisamente uno si siede e attacca a meditare. L'ho spiegato all'inizio, quando pratichiamo le meditazioni nel contesto del sentiero graduale verso l'illuminazione, c'è un procedimento vero e proprio che porta alla fine a quella particolare meditazione. Non si entra così a nuovo, a freddo nella meditazione. Si sviluppano quelle che si chiamano le sei pratiche preliminari. Adesso vediamo se negli ultimi due giorni che ci sono rimasti abbiamo tempo se avessimo un po' di tempo per spiegare queste cose, sarebbe di grande beneficio. Adesso speriamo di avere tempo. Comunque è indispensabile, anche se non riuscissimo a coprire tutto questo soggetto, che prima o poi studiaste, o comunque se chiedete questi insegnamenti sono estremamente importanti, perché c'è un modo ben specifico in cui si medita l'amrim. Non è che il gesto solamente uno si siede, chiude gli occhi e attacca a meditare il tonglen, per esempio. Perché è un po' come, mi sono dimenticato di dire, ho fatto un esempio che ce l'ha, è un po' come se vogliamo preparare un orto, ok? Dobbiamo seminare, dobbiamo coltivare qualche cosa. Per prima cosa dobbiamo pulire il terreno, se il terreno può essere pieno di rocce, poi bisogna scavarlo, bisogna rivoltarlo, bisogna pulirlo, poi solo dopodiché possiamo metterci i semi, seminarlo e aspettare di coltivarlo in modo da ottenere dei frutti. Nello stesso modo la mente va preparata per poter meditare e ricevere dei benefici dalle meditazioni che facciamo. La mente va preparata, e come si prepara? Appunto con queste pratiche preliminari, che sono sei. Bene. Adesso me l'ha chiesto Mego, io non mi sembra di ricordare qualcosa, ma non sono sicuro. È comunque un consiglio che ha dato Maitreya a Subhuti, credo che sia. Subhuti, questo bodhisattva che chiede a Maitreya: ma qual è il modo più veloce per ottenere l'illuminazione? E Maitreya ha risposto, cominciando a parlare del ha risposto appunto spiegando quella che è la pratica in sette rami, cominciando dalle prostrazioni. Questo è estremamente importante, far precedere le proprie meditazioni dalla pratica in sette rami. No, per cui ecco, adesso vedete stiamo cominciando a parlare ancora un po' a destra e a sinistra. Comunque nel momento in cui pratichiamo, facciamo questa per cui si comincia la propria pratica di meditazione facendo le sei pratiche preliminari, e sulla base di aver finito le sei pratiche preliminari poi c'è la sessione di meditazione vera e propria, in questo caso la meditazione del Tonglen. E come si procede? Per cui a quel punto si pratica appunto il Tonglen. Comunque prima si prende, poi si dà. Che cosa si fa? Come si fa? Si riflette profondamente sulle sofferenze degli esseri, come sono causate, come tutti gli esseri senzienti, tutti gli altri, visualizzando, pensando a tutti gli altri, come tutti questi esseri soffrono a causa dell'odio, ignoranza, attaccamento, l'oscurazione, disturbanti e così via. E per cui pensando in questo modo, con sincerità pensiamo che di prendere su di noi le oscurazioni distruttive e tutta la sofferenza causata da queste oscurazioni distruttive di tutti gli esseri nell'aspetto di fumo che esce dagli esseri senzienti, per cui che fuoriesce da loro nell'aspetto di fumo ed entra dentro di noi mentre inspiriamo dalla narice sinistra. E questo fumo si va a assorbire completamente nel centro del nostro cuore, dove c'è l'egoismo, nel centro dell'egoismo. E poi quando espiriamo invece, pensiamo che espiriamo dalla narice destra, espiriamo tutte le qualità, tutte le virtù, tutte le felicità, tutto ciò che possediamo nell'aspetto di luce bianca, e questo entra negli esseri senzienti e va a maturare dentro loro. Questa meditazione va fatta con sincerità, non solamente come un esercizio di visualizzazione, per cui deve essere veramente sentita, questo prendere e questo dare deve essere qualcosa che avviene profondamente. E in molti testi è spiegato che il modo vero e proprio di addestrare la propria, questo è un modo di addestrare la propria mente nel prendere, nel dare, nel pensare agli altri più che a se stessi. Per cui quando pensiamo che queste le sofferenze, le cause delle sofferenze degli esseri escono da loro nell'aspetto di luce nera, per esempio, anche come se fossero comunque nell'aspetto di luce, dobbiamo pensare che veramente dopo che le abbiamo prese su di noi, veramente questi esseri sono veramente liberi da queste, e che veramente queste cose maturano dentro di noi, che le portiamo noi dentro di noi. Questo va fatto con questo tipo di sincerità. Questo è il modo di addestrare la mente, anche se non avviene così a livello pratico effettivo, perché l'addestramento avvenga deve essere fatto con una convinzione solida. Questo Per veramente per realizzare bodhicitta, per realizzare la mente dell'illuminazione, è indispensabile avere una grandissima quantità di meriti. E non c'è niente di meglio che accumulare tantissimi meriti se non con questa pratica. E sulla base di questo addestramento si praticano anche quelli. Si praticano e si ottengono quelli che sono le cinque forze. Una di queste forze è la forza dell'intenzione. Poi la forza della meditazione. E poi c'è la forza del seme bianco e la forza del rigettare o dell'opporsi e la forza delle preghiere. Il primo, che è la forza dell'intenzione o della determinazione, si riferisce al fatto di determinarsi e di avere l'intenzione di mantenere sempre, costantemente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, per la durata di questa vita, durante la morte, durante la prossima vita, fino a tutte le vite future, di mantenere con fermezza e con intensità la mente dell'illuminazione, l'intenzione di essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Questo è il primo, questa forza della determinazione, dell'intenzione. La forza della meditazione si riferisce più che altro all'abitudine. Adesso questa deve avere un'interpretazione più letterale, il significato qui di meditazione dal punto di vista della familiarità, ovvero sia costantemente familiarizzarsi con questo tipo di mente, di attitudine. Abituare la propria mente costantemente in questa meditazione. Poi c'è la forza del seme bianco. Questo che cos'è? Il seme bianco si riferisce alla mente dell'illuminazione, per cui cercare il più possibile di generare la mente dell'illuminazione che non è stata generata e di rafforzare e incrementare quella che siamo stati in grado di generare. E la forza dell'opposizione, che cosa vuol dire? Vuol dire ogni volta essere sempre consapevoli della propria attitudine mentale, ogni volta che l'egoismo, il pensiero per se stessi sorge, immediatamente fermarlo ed eliminarlo, pensando agli svantaggi che dal tempo senza inizio ci porta questo pensiero, questa attitudine egoistica, e i vantaggi che invece porta l'altruismo. E la forza delle preghiere è quella di dedicare, di pregare, che questo è facile, che in questa vita, in tutte le vite future, sempre avere le condizioni favorevoli, dei corpi, delle vite adatte a sostenere, a incrementare, a praticare e a portare a completo compimento la pratica delle due bodhicitta. Due bodhicitta, a questo punto bisognerebbe parlare di due tipi di bodhicitta, della mente dell'illuminazione, quella che è dell'aspirazione e quella che è dell'impegno. E per cui ci fermiamo a questo punto per questa mattina e vediamo se abbiamo tempo oggi pomeriggio di di parlare di queste. Mandala kan ya da ya men